Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Un quarto d'ora dopo, a un capo di Rue Férou, comparve Porthos su di un magnifico ginnetto. Lo seguiva Mousqueton su un cavallo di Alvernia, piccolo ma solido. Porthos sfavillava di gioia e di orgoglio. In pari tempo Aramis comparve all'altro capo della via cavalcando un superbo corsiero inglese. Lo seguiva Bazin su un cavallo roano, tenendo per la briglia un vigoroso cavallo del Mecklenburgo, quello destinato a D'Artagnan. I due moschettieri si incontrarono sulla porta. Athos e D'Artagnan li guardavano dalla finestra. «Caspita!» disse Aramis. «Che magnifico cavallo, Porthos!» «Sì!» rispose Porthos. «È quello che doveva avere prima. Un brutto scherzo del marito aveva fatto sì che venisse sostituito con l'altro, ma poi il marito è stato punito e io ho ottenuto piena soddisfazione». Comparvero quindi Planchet e Grimaud, portando per le briglie le cavalcature dei loro padroni. D'Artagnan e Athos scesero, montarono in sella accanto ai compagni e tutti e quattro si misero in cammino. Athos sul cavallo che doveva alla moglie, Aramis sul cavallo che doveva all'amante, Porthos sul cavallo che doveva alla procuratrice e D'Artagnan sul cavallo che doveva alla sua buona stella, la migliore amante che ci sia. I domestici seguivano. Di galoppo si portarono sulla strada di Chaillot. La luce cominciava a calare, andavano e venivano le carrozze. D'Artagnan, sorvegliato a pochi passi di distanza dai compagni, vi insinuava dentro lo sguardo, ma senza scorgervi nessuna faccia nota. Finalmente, dopo un quarto d'ora di attesa, quando ormai era sceso del tutto il crepuscolo, comparve una carrozza che arrivava di gran corsa dalla strada di Sèvres. Un presentimento avvertì D'Artagnan che in quella carrozza c'era colei che gli aveva fissato il convegno. Il giovane si stupì di sentire il cuore battergli con tanta violenza. Quasi subito una testa di donna si sporse dallo sportello, con due dita sulle labbra come a raccomandare il silenzio o a mandare un bacio. D'Artagnan lanciò un piccolo grido di gioia. Quella donna, o meglio, quell'apparizione, perché la carrozza era passata con la rapidità di una visione, era Madame Bonacieux. La carrozza continuò la sua strada sempre di gran carriera, si addentrò in Parigi e disparve. D'Artagnan, sbalordito, era rimasto immobile, non sapendo cosa pensare. Se era Madame Bonacieux e se tornava a Parigi, perché quel fuggevole appuntamento? Perché soltanto quella scambievole occhiata? Perché quel bacio gettato al vento? Se invece non era lei, il che poteva anche darsi perché la scarsa luce rendeva più che possibile l'errore, se non era lei, non sarebbe stato quello l'inizio di un colpo di mano preparato ai suoi danni con l'esca della donna di cui lo si sapeva innamorato? I tre compagni gli si riaccostarono. Tutti e tre avevano veduto benissimo una testa di donna affacciarsi allo sportello, ma nessuno di loro, tranne Athos, conosceva Madame Bonacieux. Athos, d'altro canto, propendeva a ritenere che si trattasse di lei, ma meno interessato di D'Artagnan alla vista di quel grazioso viso, gli era parso scorgere un'altra testa di uomo in fondo alla carrozza. «Se è così», disse D'Artagnan, «certo, la trasportano da una prigione a un'altra. Ma cosa vogliono fare di quella povera creatura e come potrò mai raggiungerla?» «Amico», disse Athos gravemente, «ricordatevi che solo i morti siamo destinati a non rivedere su questa terra. Ne sapete qualcosa come me, non è vero? Orbene, se la vostra amica non è morta, se è lei quella che abbiamo vista, un giorno o l'altro la ritroverete. E forse, mio Dio», soggiunse con il tono da misantropo che gli era proprio, «forse prima di quanto vorreste». Batterono le 7:30. La carrozza aveva tardato di una ventina di minuti rispetto all'ora fissata. Gli amici ricordarono a D'Artagnan che aveva un impegno pur facendogli osservare che poteva ancora liberarsene. Ma D'Artagnan era testardo e curioso al tempo stesso. S'era messo in mente di andare al Palais Cardinal e di conoscere ciò che voleva dirgli Sua Eminenza. Niente poté fargli cambiare proposito. I quattro giunsero in Rue Saint-Honoré e in piazza del Palais Cardinal trovarono i 12 moschettieri lì convocati che passeggiavano in attesa dei camerati. Solo lì spiegarono loro di che si trattava. D'Artagnan era molto noto nell'onorato corpo dei moschettieri del re, di cui si sapeva che un giorno avrebbe fatto parte, sicché veniva considerato un camerata. Così stando le cose, tutti accettarono più che volentieri l'incarico per cui erano stati chiamati. Con ogni probabilità si trattava inoltre di giocare un brutto scherzo al cardinale e ai suoi fidi e, per spedizione del genere, quei degni gentiluomini erano sempre pronti. Athos quindi li divise in tre gruppi. Prese il comando di uno, diede il secondo ad Aramis, il terzo a Porthos. Poi ogni gruppo andò ad appostarsi di fronte a un'uscita. Dal canto suo D'Artagnan entrò spavaldo dalla porta principale. Benché si sapesse validamente appoggiato, il giovanotto non poteva nascondere a se stesso una certa inquietudine mentre saliva gradino dopo gradino lo scalone. Se De Wardes ha raccontato tutta la faccenda al cardinale, il che è indubbio, e se mi ha riconosciuto, il che è probabile, devo considerarmi pressappoco un condannato, diceva D'Artagnan scuotendo il capo. Ma perché ha aspettato fino a oggi? Semplicissimo. Milady mi avrà denunciato con quell'aria ipocrita di sofferenza che la rende tanto interessante, e quest'ultimo misfatto avrà fatto traboccare il vaso. Per fortuna, soggiunse, giù ci sono i miei buoni amici che non mi lasceranno portar via senza difendermi. Però la compagnia dei moschettieri di Monsieur de Treville non può fare da sola la guerra al cardinale, che dispone delle forze di tutta la Francia e davanti al quale la regina è senza potere e il re senza volontà. D'Artagnan, amico mio, sei un coraggioso, hai eccellenti qualità, ma le donne ti rovineranno. Era giunto a quella triste conclusione quando entrò nell'anticamera. Consegnò la lettera all'usciere di servizio che lo introdusse nella sala d'attesa e si inoltrò nell'interno del palazzo. In quella sala stavano 5 o 6 guardie del cardinale che, riconoscendo D'Artagnan e sapendo che era stato lui a ferire Monsieur de Jussac, lo guardarono sorridendo ambiguamente. Rientrò l'usciere facendo cenno a D'Artagnan di seguirlo. Parve al giovane che, guardandolo allontanarsi, le guardie bisbigliassero tra loro. Egli percorse un corridoio attraverso un salone, entrò in una biblioteca e si trovò di faccia a un uomo seduto a un tavolo, intento a scrivere. L'usciere lo introdusse e si ritirò senza proferire parola. D'Artagnan rimase in piedi e esaminò l'uomo. Sulle prime credette di avere a che fare con un giudice che esaminasse degli incartamenti, ma si avvide che l'uomo seduto al tavolo scriveva, o meglio correggeva, delle righe di lunghezza diseguale, scandendo delle parole sulle dita. Capì di trovarsi di fronte a un poeta. Dopo un attimo il poeta chiuse il manoscritto sulla cui copertina c'era scritto Miram, tragedia in 5 atti, e alzò il capo. D'Artagnan riconobbe il cardinale. Il cardinale appoggiò il gomito sul manoscritto, la guancia sulla mano, e guardò un attimo il giovane. Nessuno aveva occhi che scrutassero più nel profondo del cardinale di Richelieu. E D'Artagnan sentì quello sguardo scorrergli lungo le vene come una febbre. Tuttavia seppe darsi un contegno, tenendo in mano il feltro e aspettando il beneplacito di Sua Eminenza senza eccessivo orgoglio, ma anche senza eccessiva umiltà. «Signore», gli disse il cardinale, «siete un D'Artagnan del Béarn «Sì, monsignore», rispose il giovane. «Ci sono parecchi rami di D'Artagnan a Tarbes e nei dintorni», disse il cardinale. «A quale appartenete?» «Sono il figlio di colui che ha combattuto le guerre di religione con Enrico il Grande, padre della sua graziosa maestà». «Ho capito. Siete voi che siete partito 7 o 8 mesi fa dal vostro paese per venire a cercare fortuna nella capitale?» «Sì, monsignore. Siete venuto passando per Meung, dove vi è capitato un incidente, non ricordo bene che cosa, ma insomma qualcosa». «Monsignore», disse D'Artagnan, «ecco ciò che mi è capitato. Inutile, inutile», continuò il cardinale con un sorriso che significava che conosceva la storia altrettanto bene di colui che voleva raccontargliela. «Avevate una raccomandazione per Monsieur de Tréville, vero?» «Sì, monsignore, ma appunto in quel brutto affare di Meung la lettera era andata smarrita», riprese l'eminenza. «Sì, lo so, ma Monsieur de Tréville è un buon fisionomista, capisce gli uomini a prima vista e vi ha posto nella compagnia di suo cognato, Monsieur de Cessar, lasciandovi sperare che un giorno all'altro sareste entrato nei moschettieri». «Monsignore è perfettamente informato», disse D'Artagnan. «Da allora vi sono accadute molte cose. Siete andato a passeggiare dietro i Chartreux un giorno che sarebbe stato meglio foste stato altrove. Poi avete fatto con i vostri amici un viaggio ai bagni di Forges. Loro si sono fermati per strada, ma voi avete continuato la vostra, più che naturale. Avevate degli affari in Inghilterra». «Monsignore», disse D'Artagnan tutto scombussolato, «andavo a caccia a Windsor o altrove. Queste cose non riguardano nessuno. Io lo so perché il mio mestiere è di sapere tutto. Al vostro ritorno siete stato ricevuto da un'augusta persona e vedo con piacere che avete conservato il ricordo che ella vi ha dato». D'Artagnan portò la mano al diamante avuto dalla regina e ne voltò bruscamente la pietra all'interno, ma troppo tardi. «L'indomani», riprese il cardinale, «l'indomani di quell'avvenimento avete ricevuto la visita di Cavois. Voleva pregarvi di passare a palazzo, ma non gli avete reso la visita e avete fatto male». «Monsignore, temevo di essere incorso nella collera di vostra eminenza». «E perché mai, signore?» «Per avere seguito gli ordini dei vostri superiori con maggiore intelligenza e con maggiore coraggio di quanto non l'avrebbe fatto un altro. Incorrere nella mia collera quando meritavate degli elogi. Io punisco quelli che non obbediscono e non quelli che, come voi, obbediscono troppo bene. E come prova, ricordatevi la data in cui vi avevo fatto dire di venire da me e rinvangate nella vostra memoria cosa è accaduto quella sera stessa. Proprio quella sera era avvenuto il rapimento di Madame Bonacieux». D'Artagnan rabbrividì e ricordò che una mezz'ora prima la poveretta gli era passata accanto, certo ancora trascinata via dallo stesso potere che l'aveva fatta sparire. «E infine», continuò il cardinale, «poiché non sentivo parlare di voi da qualche tempo, ho voluto sapere cosa facevate. Del resto mi dovete dei ringraziamenti. Voi stesso avete notato come vi abbia risparmiato in ogni circostanza». D'Artagnan si inchinò rispettosamente. Il cardinale continuò: «E questo era dovuto non solo a un naturale sentimento di giustizia, ma anche a un piano che avevo nei vostri confronti». D'Artagnan era sempre più meravigliato. «Siete coraggioso, Monsieur D'Artagnan», disse l'eminenza. «Siete prudente, il che vale di più. Mi piacciono gli uomini di cervello e di cuore. Non spaventatevi», disse sorridendo. «Per uomini di cuore intendo gli uomini di coraggio, ma per quanto così giovane e appena entrato nel mondo, avete dei nemici potenti. Se non sarete attento, vi rovineranno. Ahimè, monsignore, rispose il giovane, è probabilissimo che lo facciano perché sono forti e hanno molti appoggi, mentre io sono solo. Sì, è vero, ma per quanto solo, avete già fatto molto e farete ancora di più, ne sono certo. Comunque credo che abbiate bisogno di essere guidato nell'avventurosa carriera che avete iniziato perché, se non sbaglio, siete venuto a Parigi con l'ambiziosa idea di fare fortuna. Sono nell'età delle folli speranze, monsignore, disse D'Artagnan. Le folli speranze sono proprie degli stolti, signore, e voi siete intelligente. Vediamo un po', che ne direste del grado d'insegna nelle mie guardie e di una compagnia dopo la campagna? Monsignore, accettate, vero? Monsignore, riprese D'Artagnan con imbarazzo, come? Rifiutate? Esclamò il cardinale stupito. Appartengo alle guardie di Sua Maestà, monsignore, e non ho motivo di esserne scontento. Ma mi pare, osservò l'eminenza, che le mie guardie, le mie, siano anche le guardie di Sua Maestà, e che basta servire in un corpo francese per servire il re. Monsignore, vostra eminenza ha frainteso le mie parole. Volete un pretesto, vero? Capisco. Ebbene, il pretesto l'avete. La promozione, l'aprirsi della campagna, l'occasione che io vi offro, questo per la gente. Per voi il bisogno di protezioni sicure, perché è bene che sappiate, Monsieur D'Artagnan, che ho ricevuto gravi lagnanze contro di voi. Voi non consacrate esclusivamente i giorni e le notti al servizio del re. D'Artagnan arrossì. D'altronde, continuò il cardinale, appoggiando la mano su un fascio di carte, ho qui tutto un incartamento che vi riguarda, ma prima di leggerlo ho voluto discorrere con voi. So che siete un uomo deciso e i vostri servigi ben diretti, invece di ridurvi a mal partito, potrebbero rendervi molto. Su via, riflettete e decidetevi. La vostra bontà mi confonde, monsignore, rispose D'Artagnan, e riconosco in vostra eminenza una magnanimità che mi fa sentire piccolo come un verme. Ma insomma, poiché monsignore mi consente di parlargli con franchezza, D'Artagnan fece una pausa. Sì, parlate. Ebbene, dirò a vostra eminenza che tutti i miei amici sono nei moschettieri e nelle guardie del re, e i miei nemici, per assurda fatalità, sono a servizio di vostra eminenza. Sarei quindi qui male accolto e lì mal visto se accettassi l'offerta di monsignore. Avete già per caso l'orgogliosa convinzione che non vi offro abbastanza per le vostre qualità, signore? Chiese il cardinale con un sorriso sdegnoso. Monsignore, vostra eminenza è 100 volte troppo buona con me, e anzi penso di non avere ancora fatto abbastanza per essere degno dei vostri favori. L'assedio di La Rochelle sta per cominciare, monsignore. Servirò sotto gli occhi di vostra eminenza, e se ho la fortuna di comportarmi all'assedio in modo tale da attirare i vostri sguardi, è bene. Dopo almeno avrò alle spalle qualche azione brillante per giustificare la protezione di cui voi vorrete onorarmi. Ogni cosa va fatta a suo tempo, monsignore. Più tardi, forse, avrò il diritto di darmi. Adesso avrei l'aria di vendermi. Ossia, rifiutate di servirmi, signore, disse il cardinale con un tono di stizza, da cui però trapelava una specie di stima. Rimanete libero e conservate i vostri odi e le vostre simpatie. Comunque vi do un consiglio: rigate dritto, perché dal momento che io avrò ritirato la mia mano sopra di voi, non muoverò un dito per salvarvi. Farò il possibile, monsignore, rispose il guascone con nobile fermezza. Ricordatevi, a un certo punto, se vi capitasse qualche disgrazia, disse Richelieu con intenzione, che sono stato io a cercarvi e che ho fatto il possibile perché non vi capitasse. Qualunque cosa capiti, rispose D'Artagnan mettendosi la mano sul petto e inchinandosi, sarò eternamente riconoscente a vostra eminenza per quel che ha fatto per me in questo momento.